Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Allora, buonasera, buonasera a tutte. Quella che sta per iniziare sarà la nostra 306esima trasmissione. E chi vi sta parlando è Caterina e con me c'è Rosina. Buonasera a tutte. Insieme questa sera vi presenteremo un libro che abbiamo letto da poco, stiamo parlando di Risotto al veleno, la cui autrice è Donatella Massara. Abbiamo avuto il piacere anche non molto tempo fa di vedere in una forma diversa da quella di donna di scrittura. Infatti, se avete seguito tutte le nostre trasmissioni, ricorderete che abbiamo parlato prima della pausa estiva, a maggio mi sembra, dell'ultimo film di Milly Toia, Le pietre e l'amore, nel quale Donatella appunto era tra le protagoniste. Ora, quando abbiamo preso accordi con lei per organizzare questa puntata, abbiamo deciso di accettare una sua proposta che vi permetterà di ascoltare la presentazione del libro in questione attraverso la voce proprio di Donatella Massara, la quale con Maurizia Ferrari e Cristina Silardi ha inciso un file sonoro che gentilmente poi ci hanno inviato. Allora la sentiremo tra poco per telefono in modo che possa rispondere a qualche nostra domanda, però intanto vorremmo presentarla dicendo due parole su di lei. Rosina, ti passo la parola se hai voglia. Ti ringrazio, mi corre l'obbligo di correggere, si tratta di Cristina Salardi e non Silardi, non vorrei causare l'incidente di percorso. Siccome che sono ciecata, diceva qualcuno. È lo sviluppo, cara Caterina, esatto. È lo sviluppo. Allora, come abbiamo detto, avremo il piacere stasera di avere con noi Donatella Massara, biellese, studi a Milano e laurea in storia della filosofia, due master, una donna appunto di lettere e di scrittura, due master in discipline filosofiche e storiche, abbiamo detto. È una donna che viene dal movimento, una donna appunto che negli anni 70 ha aderito al movimento delle donne, abbandonando in qualche modo la politica militante nei gruppi della sinistra insieme ad altre temerarie. E nel 1976 è stata fondatrice appunto insieme ad altre della Casa delle Donne di Via Mancinelli e nel 77 è entrata a far parte della Libreria delle Donne di Milano, ma già aveva aderito al gruppo numero 4 di Via Col di Lana. Ha partecipato a molti collettivi, molti gruppi femministi collegati alla pratica del partire da sé. Ha svolto la carriera di insegnante nei licei. Dal 2000 si dedica alla cura del sito di cui è fondatrice, Donne e Conoscenza Storica, nel quale si occupa di comunicazione della storia e del pensiero delle donne, di storia e critica del cinema femminile, quindi una donna poliedrica. Nel 2006 ha partecipato al Simposio Internazionale delle Filosofe all'Università Roma 3 e lavora anche alla costruzione della web radio Donne di Parola con altre socie per diffondere la voce e interpretare i testi delle donne, tra cui appunto principalmente le scrittrici italiane fra l'Ottocento e il Novecento. Tra le molte cose che ha fatto, come diceva prima Caterina, ha partecipato appunto all'ultimo film di Milly Toia, Le pietre e l'amore. La collaborazione con Milly Toia però è diciamo più lontana nel tempo, appunto comincia nel 2008 quando è stato realizzato un festival itinerante di cinema indipendente delle donne, anche in collaborazione con Giovanna Foglia e Fiorella Cagnoni, che mi permetto di ricordare è un insigne giallista, la mamma di Alice Carta, che nel mio passato ormai remoto io ho molto amato e molto apprezzato. A questo punto Caterina ci farà sentire un piccolo brano musicale e poi ci metteremo subito in contatto con Donatella, che ringraziamo già anticipatamente. Allora ascoltiamo il brano Try to be True. Vai, il brano delle Indigo Girls. Ok, buon ascolto. Ed eccoci qui nuovamente in diretta, spero che ci no, sia. È caduta? Ci sei? Io vi sento, adesso vi sento. Donatella, buonasera. Buonasera. Buonasera. Vi ringrazio per il brano musicale. Che cosa Rosina ha detto di me? Non sono riuscita a sentirlo. Questo mi dispiace molto. Lo potrai sentire poi nel nostro podcast. Credo che si dica così. Sì, noi facciamo finta di essere molto tecnologiche, in realtà non lo siamo. Esatto. È verissimo. Io, per la verità, sono molto contenta di parlare finalmente a voce con te, perché come forse non tutte sanno, Caterina è quella che si occupa dei contatti, essendo una donna diplomatica, di grande diplomazia, e soprattutto essendo più tecnologica di me, che appunto ho la tecnologia di una carota sott'aceto, che come si sa, insomma, non è proprio il massimo. Non è proprio il massimo a livello di gastronomia. Va bene, adesso abbiamo solamente un telefono che ci divide. Esattamente. E dovremmo speriamo che prima o poi anche il telefono cada giù come una intercapedine. Dunque, Donatella, allora grazie innanzitutto per essere qui con noi. Abbiamo fatto una piccola presentazione, grazie, quindi voi. Le nostre ascoltatrici già sanno più o meno di te, quindi stasera, come abbiamo già anticipato, vorremmo parlare un po' del tuo bel libro Risotto al veleno. Non anticipiamo nulla, perché appunto si tratta di un giallo, quindi diremo soltanto che è un giallo che si occupa non solo di delitti, ma anche di politica delle donne, di politica istituzionale, insomma di quel tipo di politica di cui tu ti sei occupata nel corso della tua esperienza. Però ci piacerebbe sapere come mai proprio hai deciso di scegliere la struttura di un libro giallo, e quanto magari può essere stato complicato ipotizzare questo tipo di forma. Ma io ho cominciato una decina di anni fa, quasi per scherzo, quindi con questa ipotesi che avevo in mente di questo personaggio che era un uomo politico che muore, che viene assassinato ed è un nero, quindi è una forzatura della realtà, no? Poi Obama non esisteva ancora neanche ai nostri orizzonti. Dopodiché mi sono accorta che lavorare su un libro giallo non è affatto facile, perché è diventata una vera indagine, cioè io stessa sono diventata proprio una detective, ho dovuto leggere, cercare una struttura che appunto, almeno dal mio punto di vista, potesse avere una certa consistenza, e quindi ho dovuto proprio indagare, indagando poi sulla storia italiana, che è veramente una storia dove tutto è occultato, no? Cioè, i fatti veri poi appunto, cioè certo, non ci sono mai colpevoli, tutto viene così insabbiato, si sfuma, certo, poi c'è il secondo, il terzo processo. Ho trovato poi il bando della matassa, finalmente un libro di un uomo, tra l'altro, che aveva ricostruito una grossa, la tangente, la madre di tutte le tangenti è stata chiamata, mm-hmm, no? E lì ho cominciato a vedere qualcuno che seriamente aveva messo insieme dei documenti e aveva fatto dei nomi, aveva ricostruito questa vicenda, che era la vicenda di quando c'è la crisi petrolifera, cioè magari ci sono molte giovani che non ne sanno niente, ma negli anni 70 c'è stato questo periodo della crisi del petrolio, per cui non c'era più, non arrivava più petrolio in Italia, cioè, e quindi avevamo il razionamento della benzina, le targhe alterne, se non ricordo male. C'era il periodo delle targhe alterne esatto. Questo un po' più avanti, però più o meno in quel periodo lì, appunto, c'è questa grossa tangente che avviene in quanto che si mettono insieme, fanno una cordata interpartitica e decidono appunto di acquistare un petrolio per l'Italia per un certo numero di anni, quindi di rendersi autonomi dalle sette sorelle che allora egemonizzavano il mercato. Mm-hmm. Che cosa succede? Che questa tangente, perché di tangente poi si tratta, in realtà era fasulla, cioè serviva a essere spartita in Italia all'interno di questa cordata. Mm-hmm. Dopodiché tutto finisce in nulla, ovviamente, si creano 4-5 commissioni d'inchiesta nei vari organi di Stato e tutto finisce in niente e viene stabilito che effettivamente la tangente c'era ed era per quelli che di solito la vogliono, cioè, mm-hmm, per i fornitori, ma in realtà non era così, solo una piccola parte sarebbe andata agli arabi, l'altra parte sarebbe stata spartita in Italia, mm, ed era un'ingente massa di denaro. Allora, tutto questo è stato descritto. Ecco, lì ho trovato il bandolo della matassa, quindi finalmente ho detto, ecco, l'indagine l'ho fatta. Può essere credibile, ascolta. Poi tu mi dici, ma perché proprio un giallo? Il giallo perché è partito così, ma perché io sono affezionata al mondo della storia, ho insegnato, uh-huh, storia e filosofia un po' di anni, e quindi non credo nei gialli col serial killer che commette 10 delitti efferati, cioè quel mondo lì, mi fa anche un po' schifo, diciamo. E quindi invece mi è piaciuto entrare dentro alla realtà, storica, e poi ricostruirla a modo mio. Ascolta, io a questo punto ti vorrei fare una domanda, perché quello che hai appena descritto è il contesto, diciamo, sociale e politico all'interno del quale si svolge la storia del tuo romanzo, però io leggendolo ho avuto una piacevole sensazione e una conferma, che è quella della tua grande sensibilità rispetto alla condizione femminile, perché descrivi alcuni passaggi in maniera molto puntuale, e quindi mi viene spontaneo chiederti quanto ha inciso il tuo impegno nella strutturazione di questo racconto con l'occhio sulla situazione delle donne. Ha inciso nel senso che io sono sempre io, cioè non la mia figura di scrittrice diventa un tutt'uno con quello che sono, quindi io quello che hai detto, questa sensibilità che hai avvertito, mi piace moltissimo, l'hai formulata molto bene, mi fa molto piacere. Però, come dire, questo è quello che so fare, non saprei fare altro, no? Non saprei che parlare così del mondo che mi sta intorno, e quindi di mettere in gioco la presenza femminile è quello che io posso posso vedere, no? Di, certo, ho voglia, certo, di descrivere, soprattutto di far raccontare. Certo, no, no, no, ma infatti poi come sempre succede, ognuna di noi quando fa le cose porta se stessa, non c'ha un personaggio adatto per ogni situazione, noi siamo sempre noi stesse e questa è una cosa che a me è piaciuta moltissimo. Dunque, quindi abbiamo detto, appunto, per la tua lunga, diciamo, pratica con le donne, evidentemente all'interno di questo romanzo, di questo giallo, hai riportato, appunto, io credo, penso, immagino, anche delle caratteristiche forse di persone che hai conosciuto, non nello specifico, magari anche così semplicemente in generale, non so, l'intellettuale, la politica, me ne invento, la pazza, la folle, quella che insiste, quella che si tira indietro, dove hai, diciamo, come hai fatto a caratterizzare questi Ma tu hai detto personaggi? Bene, non nello specifico, non infatti nello specifico. Questi sono proprio sono personaggi e personaggi, quei pochi, sì, totalmente di fantasia. Certo che nella fantasia, cioè il sangue poco o tanto che scorre dentro questo personaggio viene, lo si attinge dalla realtà, dalle amicizie, dal mondo comune delle donne, certo, dai romanzi, anche dai personaggi di madri di tutte noi, come potrebbe, certo, essere Virginia Woolf, no? Ecco, tutto questo poi entra dentro al gioco dei personaggi, almeno in questo primo romanzo che ho scritto è andata così. Ok, senti, una delle altre, un'altra cosa che ti volevo dire, che e che ho notato con piacere, è che nel contesto generale è presente una relazione amorosa fra due donne. Il piacere è scaturito dal fatto che nella descrizione che tu fai di questa coppia lesbica tu non hai affibbiato loro i soliti cliché, per dire nessuna delle due si suicida, nessuna delle due è disturbata mentale o ha una famiglia d'origine disastrata, poi non sono ragazzine, sono donne adulte che consapevolmente hanno deciso di vivere insieme e soprattutto non si tingono i capelli di blu. Allora, nel ringraziarti per questo, ti chiediamo quanto pensi sia importante rendere visibile una normalità altra, cioè quanto può diventare determinante la visibilità di questa quotidianità rispetto anche alla deriva quasi fondamentalista che si contrappone ad ogni avanzamento sociale. Questo sicuramente è quello che c'è a livello istituzionale, diciamo, ma nel mondo di tutte noi mi pare che prevalga questo primo aspetto di questa quotidianità spesa in tante situazioni, anche molto visibile. Anche qui io mi sono rifatta al mondo milanese, diciamo, però è un mondo nel quale io vivo da quando almeno avevo 25 anni, certo, ed è un mondo dove le relazioni fra donne sono nate, cresciute, sono cambiate, sono evolute con molta così contaminazione di quello che è il mondo comune di tutti quanti. Quindi io ho semplicemente buttato lì un desiderio, questo sì, che il desiderio di una coppia trentennale è un mio desiderio molto contraddittorio. Quindi allora questa quotidianità è importante farla vedere, no? Certo. Però secondo me è anche molto importante giocare il desiderio. Assolutamente, cioè in qualche, sì, modo fare un po' leva sulla realtà, cioè giocare anche un po' sul simbolico, cioè io mi sono detto è come se avessi danzato a piedi scalzi naturalmente con una coreografia originale di cui ho la mia signoria, insomma, io è mia quella coreografia lì, però ho forzato un po' la realtà e questo secondo me è importante, cioè descrivere, sì, ma anche giocare qualcosa in più. Certo. Magari da un certo punto di vista qualcosa in meno. Certo, certo, ci sono tante sfaccettature, però l'importante è che ci sia come l'importante presenza. L'importante è che certo. però tu lavori anche sul desiderio, secondo certo. me. Allora questa quotidianità sì che prende a parlare, perché si è come sfrondata della ripetitività, anche dagli elementi più dolorosi forse, per trovare una sua purezza, mm-hmm. che secondo me, almeno così mi è stato detto, non c'è abitualmente. Io poi tutti questi personaggi così strani di cui voi parlate non li ho conosciuti molto nelle mie visitazioni romanzesche. Stavo pensando appunto che sulla rivista The Atlantic hanno fatto una selezione delle figure del cambiamento, dei grandi personaggi femminili, prendendo anche i romanzi scritti da uomini, però, sì. per esempio La lettera scarlatta di Hawthorne o quella Cesira, la ciociara sì. di Moravia, ecco, interpretata da Sofia Loren, e hanno preso e hanno messo dentro però Orlando di Virginia Woolf. Mm-hmm. Ecco, quindi questi personaggi femminili molto forti esistono nella letteratura e la critica è anche adesso è anche in grado di rivelarli. No, allora è come se non riuscissi tanto a vedere queste figure un po' semi-tragiche di cui parlate voi, ma forse perché non ho in mente gli stessi personaggi che avete in mente voi. È probabile, ma tanto guarda, i libri danno sensazioni diverse ed emozioni diverse a chiunque li legga, quindi questo è già un buon risultato, no? Se abbiamo delle cose diverse da interpretare, quindi va bene. Per fortuna anche un po' le cose sono cambiate negli anni. Mi viene in mente anche una certa filmografia, non so, partendo veramente dal Giurassico, quelle due, oppure che ne so, Immacolata e Concetta, certo. Cose sì, che insomma oggi fortunatamente me le ricordo bene. ce le ricordiamo tutte. Quando arrivò Donna Dyche con Cuori nel deserto di Jane Brule fu veramente uno scossone, finalmente nessuna si e ammazzava. Anche quello ci sarebbe da che dire. Anche lì ci sarebbe da che dire, sì. Però ormai è datatissimo, anche lui sono passati 30 anni, per cui diciamo può andare ancora bene. Certo, oggi i prodotti sono diversi. Però tornando a noi, in attesa di mandare il contributo che generosamente Donatella ci ha mandato, un contributo sonoro che appunto vi faremo sentire fra un po', volevo chiedere a Donatella dove è già stato presentato Risotto al veleno, che ricordo è un libro che ha riscosso un discreto successo, e anche per quelle nostre ascoltatrici che volessero insomma leggerlo, come fare per averlo, per ottenerlo. Allora, l'ho presentato a Torino alla Galleria Sofonisme Anguissot, la Galleria delle Donne, sì. Poi l'ho presentato a Milano in qualche libreria, l'ho presentato al CDM, al Collettivo Donne Milanesi, mm-hmm. e l'ho presentato poi in questa piccola associazione, si chiama Apriti Cielo, sempre a Milano, spesso accompagnata dalla mia cara amica Laura Modini, che mi presenta sempre sì. benissimo, in una maniera folgorante, ecco, che purtroppo nello spettacolo non c'è, perché invece lo spettacolo ce lo siamo giocate io, Maurizia e Cristina Salardi, dove Maurizia Ferrari fa ben tre parti, tre personaggi, e Cristina Salardi fa Cinzia, che è la detective, certo, insomma, certo, no? Certo. E io faccio la voce narrante. La voce di Laura non si sente perché lei di solito presentava. Okay. Quindi sì, io però non è che mi sono data molto da fare per presentarlo, l'ho presentato dove mi è stato richiesto. Ok. Senti, invece, ecco, tu dicevi sì. come fare per averlo. Allora, grazie a una casa editrice di cui magari avrete già parlato chissà quante volte, che è la ebook Chiocciola Women, non è l'email, è proprio il nome della casa editrice, che è una casa editrice femminista creata da Federica Fabiani e Marzia Vaccari, che produce soltanto ebook, cioè loro digitalizzano i testi e li creano degli ebook. Soprattutto fanno questo lavoro straordinario di digitalizzare vecchi testi femministi che stanno sparendo e anche nuovi. E quindi io l'ho pubblicato con loro e si trova su tutte le piattaforme virtuali, dalla Amazon, IBS, Edea, eccetera, oltre che sul sito della ebook Chiocciola Women. si compra l'ebook e si scarica, ecco. L'ho anche messo per una settimana gratis su Facebook. Allora, chi voleva lo poteva scaricare gratuitamente, però magari potrei rifarlo un'altra volta questo servizio. Va bene, senti, un'ultima domanda, se no poi sforiamo con i tempi tantissimo, sì, forse troppo. Pensi di proseguire questa tua esperienza scrivendo un altro libro? Assolutamente sì. Vabbè. Perché mi sono accorta che la narrativa mi permette di trasmettere dei contenuti a cui io tengo moltissimo, che attraverso la trasmissione filosofica o storica o io non sono più capace a fare questo lavoro di mediazione, oppure forse ci sono delle forme nascenti che in questo caso per la mia creatività hanno molto bene. E sì, sto già scrivendo un altro romanzo, sempre con quello sfondo storico. Certo, allora guarda, ambientato però in un'altra epoca va bene. Allora guarda, nel ringraziarti per aver partecipato alla nostra trasmissione, e prima di mandare il contributo visto che stai scrivendo questo nuovo libro, prendiamo già da ora un nuovo appuntamento. Quando l'avrai scritto rifaremo per un'altra presentazione, un'altra presentazione. Ok, grazie a te. Grazie molte, ciao Donatella. Ciao. Grazie. Allora, Donatella Massara, sì, autrice di Risotto al veleno. Adesso manderemo la presentazione. Di notte è più difficile perché il silenzio la sveglia e comincia a camminare tra i boschi fitti del mio cuore, affamata, e lo so che mi cerca di già, vorrà mangiare. Come al solito lei non si accontenterà della carne più tenera che ho. Le due signore della casa erano molto diverse. Qualcosa di maschile accompagnava la decisione di Marisa e si faceva vedere attraverso i suoi occhi ironici, che occupavano gran parte dell'attenzione di chi la guardava. Cinzia pensava di essere capitata in un mondo cresciuto disordinatamente, dove niente le apparteneva, e solo per una congiunzione fortuita di eventi succedeva qualcosa di meraviglioso, come il fatto che loro due si fossero incontrate. Marisa si occupava di critica cinematografica. Cinzia, ex giornalista, aveva lavorato nella controinformazione, una strada iniziata nel 1970, ma ormai chiusa da quando il suo gruppo di giornalisti investigatori si era disperso. Avevano lavorato insieme per anni, fino a che fare giornalismo, per raccontare aspetti di cronaca sconosciuti ai più, era diventato quasi impossibile. Nella casa in Brianza, dove abitavano Cinzia e Marisa, faceva ancora caldo il 5 settembre 2010, giorno della comunicazione del decesso di Abuel Magnang, dirigente di formazione mista, eletto nella penultima tornata elettorale alla Camera, italiano di cittadinanza, ma di origine sudanese. Una telefonata, arrivata verso le 19, interrompeva i preparativi della cena. Mariella Salvi aveva annunciato la morte di Abuel Magnang, risalente alcuni giorni prima. Si aggira solo per la campagna ligure? Perché avrebbe dovuto avere una scorta? Non c'era nessuno con lui? Abuel non era il presidente della Repubblica, era un qualsiasi deputato, esperto di commissione, simile a decine di altri. Sapevo che non gli piaceva la vita parlamentare e andava a passare il weekend solo. Abuel e Gloria si erano di fatto separati. Marisa, sono preoccupata per la telefonata di Mariella. E perché? Non vorrei perorasse aiuto per indagare sulla morte di Abuel. Non capisco altrimenti perché mi voglia parlare. Lo dico subito, io non so entrare nell'universo mentale di un uomo. Sono abituata a occuparmi di donne. Nella mia esperienza, Cinzia, la differenza fondamentale fra i due sessi è solo la tecnologia. E secondo te questo varrebbe per capire cosa avesse in mente Abuel? Probabilmente sì. Voglio dire che fra i registi e le registe esiste una differenza fondamentale. I primi possono non avere neanche un'idea, però usano pienamente il mezzo tecnico. Le seconde possono non avere molta competenza tecnologica, ma difficilmente non hanno un'idea. Insomma, ci sono più idee femminili non realizzate di quante non siano le tecnologie maschili inutilizzate. Vorresti che mi avvicinassi a un caso giudiziario sulla scorta della critica dei film delle registe e dei registi? Perché no? Il mondo del cinema offre più verità di quanto non ce ne sia nella descrizione della realtà. Le donne si espongono, gli uomini si nascondono. Loro giocano con la tecnologia, dispongono i pezzi di un immaginario. Sono codici riconoscibili e comprensibili. Le donne fanno esattamente l'opposto, mettono a disposizione se stesse, le proprie esperienze, l'intuizione di sé, le parole delle donne. Ma Fellini non lavorava sulle sue fantasie, sulle donne che amava, i sogni che faceva, i suoi ricordi? Sì, come Van Gogh dipingeva la camera dove dormiva. Voglio dire che hanno con le immagini un rapporto esterno, estetico, anche se è personalizzato. Le immagini dell'infanzia di Fellini, Notte e mezzo, sono grandiose, piene di donne, lenzuola, bambini. Lui se le ricordava così e voleva che appartenessero a tutti. Fellini non voleva raccontare la sua infanzia, ma che tutti si sentissero a proprio agio dentro ai lettoni romagnoli, scaldati con gli scaldini. In questa ricerca le donne sono più originali, riconoscono la propria singolarità e attraverso lo sguardo su di sé fanno un discorso comune. Tutto questo secondo te come potrebbe servirmi per ricostruire cosa è capitato ad Abuel? Potresti indagare sui desideri di Ab. Ognuno di noi è regista di una parte almeno della propria vita. Se un film è un modo per guardare il mondo, anche la vita delle persone ha degli spazi esposti come una pellicola. Altri invece sono nascosti. In questo caso però c'è stata forse un'esposizione eccessiva, diventata pericolosa. Vedo che comincia ad appassionarti. Prima voglio sapere che cosa vuole Mariella. Cinzia, Mariella e Abuel avevano fatto parte dello stesso gruppo politico della sinistra extraparlamentare. Poi le loro strade si erano divise. In questi anni lui, come Mariella, si era dedicato alla corsa alla carriera politica. Erano stati iscritti al partito della sinistra fino al 1996, quando una clamorosa scissione li aveva portati con altri dirigenti a congiungersi a una formazione di centrodestra. E Mariella era assolutamente certa di avere fatto una buona scelta. Cinzia e Marisa pensavano che non capisse la politica delle donne. Mariella non riusciva a concepire la politica se non come una professione e si regolava sul sentire di quelle e quelli come lei. Stava al suo posto, ubbidiva la linea del partito. Ovviamente non era questa la filosofia di Cinzia e Marisa, le quali pensavano di avere messo allo scoperto una lingua nata con la politica femminista attraverso la libertà, l'autonomia e l'indipendenza di pensiero, che era una vera alternativa ai saperi maschili. Era una lingua che dava parola alle donne e poteva essere condivisa come una ricchezza da tutti, anche dagli uomini. Attraversata da queste profonde divergenze, tuttavia, la loro amicizia mai era scaduta. Cinzia, vorrei che ti occupassi di Abuel. Non te l'aspettavi? Tu sei la persona giusta per capire se c'è un filo conduttore che lega il presente con i fatti già accaduti. Hai molta fiducia in me. So pochissimo, però credo poco alla versione che attribuisce l'omicidio ai comuni ladri. Dal punto di vista della tecnica del delitto, è chiaro che è stato causato da una sostanza velenosa, non però associabile ai funghi consumati da Ab qualche ora prima che lo ritrovassero sul bordo della collina di Alassi. Secondo il medico legale, l'autopsia non ha evidenziato la presenza di amanitini. I funghi erano velenosi, ma non della specie letale. Non è stato identificato esattamente il principio che ha causato la morte. È molto strano che le analisi vadano così a rilento, però ci credo, non è la prima volta che accade. Ma dimmi, chi può avergli somministrato dei funghi velenosi? Abuel era ad Alassio, nella casa delle vacanze che è sempre la solita villa della famiglia di Gloria. La polizia, dopo la scoperta del corpo, è entrata in casa. Ha visto che c'erano avanzi di cibo, un risotto ai funghi, di cui alcuni sicuramente non commestibili. Non è chiaro, come ti ho detto, quale sia stata la sostanza che abbia causato l'avvelenamento. È simile al curaro, ma non è ancora stata identificata. In casa hanno trovato disordini e si sono convinti che qualcosa sia stata portata via dai presunti ladri. Ma in realtà non è risultato niente. Ma di che cosa si stava occupando? Di una convenzione finalizzata a ostacolare gli interventi dell'esercito sulla popolazione civile nei paesi sottoposti ai conflitti. E tu pensi che qualcuno avesse interesse a eliminarlo? Non lo so. Era convinto che nonostante la convenzione di Lemkin contro il genocidio, passata all'ONU nel 51, nessuna potenza fosse riuscita a impedire i massacri di popolazioni nell'ex Jugoslavia, in Ruanda e adesso in Sudan. È vero, la Bosnia musulmana non toccava gli interessi americani. Questo è il vero motivo per cui gli Stati Uniti avevano rispettato la sovranità di quello Stato. Ma la discussione pubblica era se l'aggressione serba avesse il carattere del genocidio oppure no. Intanto 250.000 persone sono state ammazzate e non sono morte in battaglia. I serbi non erano forse più colpevoli delle altre parti contendenti? Ma non usciamo dal nostro discorso. Ab tentava di rivedere quella convenzione sulla scorta di ciò che è avvenuto nel XX secolo. Probabilmente aveva in mente quanto sta oggi succedendo nel Darfur. Ci sono migliaia di assassini, c'è gente che ha perso tutto e che sopravvive nei campi di confine. Pensi che qualcuno volesse fermare Abuel? Tu non escludere nessuno e nessuna. Ma che cosa sai della sua vita? Poco. So che lavorava a questo testo, faceva ricerche, incontrava persone che potessero sostenerlo, capire e condividere la proposta. Ab stava continuando la sua vita di sempre, quella di questi anni successivi alla separazione con Gloria. L'incarico in Parlamento l'aveva costretto a prendere casa in un residence sulla via Appia. Però tornava spesso a Milano e so che adorava andare in Liguria, nella casa di Alassio, e che quasi nessuno sapeva di questi weekend. Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigadiere, apro un po' la finestra, ad un tratto Pinelli cascò. Il 14 novembre 1970 Cinzia Manisco stava presidiando il portone dell'Università Cattolica Milano in Largo Gemelli. L'università era occupata, come spiegava un cartello. Le era stato affidato il compito di bloccare i professori e convincere gli studenti che volessero entrare in università a deviare verso l'aula delle riunioni. Corinna Pesenti, giornalista di anni 40, quel giorno era stata attirata verso la Cattolica, dove si era laureata in lettere classiche nel 1955. Allungata la mano per prendere il volantino che Cinzia le aveva offerto, stava proseguendo per la via dell'ingresso. Non puoi entrare dentro, l'università l'abbiamo occupata, nessuno deve entrare. Adesso faremo uscire tutti per andare al corteo. Sono qui per capire quello che succede. L'ultima volta che sono stata a lezione era parecchi anni fa. Sono una giornalista, non sapevo ci fosse un'occupazione. Sono fermi le lezioni? Faremo un giro per spiegare perché non siamo in aula, per chiedere agli studenti di uscire e ai professori di discutere le nostre proposte. La polizia è entrata in università. Sono stati arrestati dei compagni e delle compagne, anche dei lavoratori. Chiediamo al rettore di rinunciare alle denunce. In quel momento un terzetto stava camminando lungo il marciapiede che costeggia il monumento ai caduti. Abuel, conosciuto italianamente come Luca, camminava mezzo metro davanti. Gloria immancabilmente lo seguiva, accompagnata da un ragazzo più piccolo di lei. Erano sempre insieme, impossibile non notarli. Luca Abuel, di pelle nera, Gloria, i capelli biondi, spioventi quasi sugli occhi, indossava il cappotto scuro, lungo fino ai piedi. Lui, taglio ad aureola, come Jimi Hendrix, l'eschimo verde. Stavano dirigendosi, di fretta, verso la statale, dove confluivano tutte le scuole, già in sciopero. Nella notte, fra il 13 e il 14 novembre, era scoppiata una bomba davanti all'università. La bomba era scoppiata alle 4:30, un ordigno di rilevante potenza, fatto esplodere contro una delle finestre a piano terra, aveva rotto i vetri e divelto le due pesanti sbarre dell'inferriata a chiusura dell'ingresso per la notte. Il boato era stato sentito anche a distanza e questo faceva pensare che oltre alla polvere nera contenesse tritolo. Sui muri dell'università erano stati affissi i manifesti del movimento giovanile dell'MSI. A fianco c'erano dei volantini firmati da un gruppo di estrema sinistra che dicevano «Gromyko, vai a casa». Era il ministro degli esteri sovietico in quei giorni in Italia in visita ufficiale. Nessuno più provava stupore di quanto stesse capitando, essendo che di attentati ce n'era uno ogni 15 giorni. Ma adesso ritorniamo ai giorni nostri. Te non siamo estranee, le disse solo quelle poche parole e Cinzia d'impulso le accarezzò il viso. Non l'aveva mai fatto prima. Gloria la baciò leggermente su una guancia. Stavano distese, appoggiate l'una all'altra, le gambe intrecciate, le braccia avvolte, accarezzandosi. Era passato un tempo che non aveva importanza, fino alla scoperta di un'amicizia lontana che una volta le aveva unite. Stava arrivando la pioggia e la luce scarseggiava nella grande stanza. Avevano trovato una comunanza, almeno dei corpi, che colmava i vuoti del ricordo. Il tempo scorreva, scivolando fra le cose, i fatti e le persone. C'era solo fra loro un lungo filo liscio, senza sporgenze, che dagli anni 60 arrivava a quel momento. Gloria accese una abat-jour all'angolo opposto della pedana e si alzò per fare il tè. Poi andò al tavolo, estrasse dal cassetto una cartella e la passò a Cinzia. Te la fido. Sono documenti di Ab che erano nascosti in casa sua. Io sapevo dove li tenesse. La polizia non li ha trovati. Non voglio saperne niente. Te li passo. Ci farai un buon uso, sono sicura. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Millionaire, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick heart of stone, my sins my own, they belong to me. Ascoltami, Gloria. Ci manca solo una prova più sicura per confermare quello che pensiamo di avere capito. E ci siamo fatti l'idea che tu potresti aiutarci. Non so come, ma vorrei saperne di più. Pensiamo che Abuel si fosse allontanato da individui che potrebbe avere conosciuto molti anni fa e con i quali era rimasto in contatto fino all'anno scorso. Scelta che potrebbe avere scatenato una vendetta, se vuoi chiamarla così. Ma chi sarebbero queste persone? Ricorderai sicuramente che era stato interrogato dai giudici durante il processo per l'affare Paradise. Sì, certo, ricordo che era risultato completamente estraneo ai fatti. Sai che i soldi sono l'unico oggetto che con il tempo può ringiovanire. Se bene investiti, fruttano e diventano un capitale. In altre parole, noi pensiamo che i soldi della tangente Paradise abbiano avuto un destino fortunato. Non ne so niente. Come vi avevo spiegato, da alcuni anni eravamo di fatto separati. Ma escludo che Abba avesse interessi economici nell'investimento di capitali. Lo sapete, era uno studioso, un politico abbastanza idealista, ma non era capace di occuparsi di affari. Li studiava. Gloria, hai nascosto i documenti sui suoi conti correnti? Ho nascosto dei documenti bancari, è vero. Non volevo che si sapessero i suoi movimenti di denaro, ma ero sicura che non ci fosse niente di criminale. Adesso ce li puoi fare vedere? Bene, quello che avete appena ascoltato era il contributo che ci è stato mandato da Donatella Massara, che ricordo è l'autrice del libro giallo Risotto al veleno, e quindi la nostra trasmissione finisce qui. Il coordinamento Lesbiche Romane vi dà appuntamento per la nostra nuova trasmissione fra due martedì, quindi il 18 novembre. E buon proseguimento di ascolto di Radio Onda Rossa. Ciao. Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold on me, yeah.